Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché? Perché? Perché cosa, mamma? Perché tanta gente vuole male al re? Perché? Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud. Lei lo accusa di essere scappato? No, non sono io. Scusi, signora, ha detto andato, non scappato. Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano, che vuol dire scappato. Beh, vabbè, andato, scappato, perché non è andato nel nord? A combattere i tedeschi con i partigiani. Ma Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio, andava con i partigiani. Chi parla di partigiani? Io. Canaglie che non hanno fatto altro che confusione. Bravo! Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento? Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare. Certo, qualcuno verrà un tuffo nella memoria, perché per la maggior parte degli italiani, diciamocelo chiaramente, oggi è una bella giornata perché si può fare ponte tra venerdì, sabato e domenica, e quindi c'è anche il lunedì 2 giugno. Ma diciamo che nel nostro paese la sensibilità verso questa giornata è stata più intensa, è stata variegata, è stata diversa, tornando indietro negli anni. E visto che la maniera migliore che ho per riportare in superficie frammenti di storie dimenticati, io mi piace questa mattina dare un senso alla giornata assieme al più profondo e il più sublime suscitatore di ricordi di memoria, che è Giuseppe Sansonna. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno caro. Ecco, questo era Alberto Sordi, inconfondibile, che si trova impropriamente in un posto in cui era meglio che non si trovasse in quel momento. Sì, ad ascoltare appunto il suffragio universale che fa rivoltare il mondo in Italia, praticamente il re sparisce dopo 85 anni di regno e arriva la Repubblica, nasce la Repubblica, però nel posto sbagliato, perché è un pranzo di monarchici. Il film è Una vita difficile, lui è un partigiano, intellettuale, un po' improbabile in quanto Sordi, però in realtà gli riesce a dare un tono autentico in questo film di Risi. Riesce a rendere... essere credibile in un'iconografia molto forte, molto sentita. In che anno era questo? Siamo negli anni 60. Negli anni 60, figuriamoci. Mantenendo però sempre il suo aspetto lievemente cialtronesco, perché Sordi è sempre Sordi. Però c'era Rodolfo Sonego che in quanto partigiano gli aveva cucito su misura un personaggio con uno spessore, una serie di sfumature autentiche che Sordi riesce a rendere le stimmate del dolore di un'Italia in cambiamento, un'Italia che appunto parlerà anche del suo vendersi agli editori, insomma ci sarà tutto un percorso umano molto forte che Sordi ecco, vive. Quello che si respira in questo frammento è quello che veniva sentito allora maggiormente, da una parte precipua di italiani, visto che il referendum è passato proprio sul filo del traguardo, che ci fosse stata una grande truffa, un grande broglio, che fossero sparite le schede, se no altrimenti avrebbe vinto il re, per quanto piccolo, malaticcio, vecchio, infame, fuggiasco e via dicendo, tutto sommato agli italiani stava bene. La terza colonna si prepari a sfilare! La terza colonna si prepari a sfilare! Signor generale! Signor generale! Scusa, la colonna sta per sfilare. Tocca a noi, siamo in ritardo. Signor generale, non possiamo aspettare di più. Siamo costretti... Qui una scena assolutamente tragica. L'onomatopea dello sciaccone, dello sparo di pistola, forse qualcuno farà ricordare qualcosa, però cosa accade? Accade questo: nel giugno del 48, per la prima volta Via dei Fori Imperiali ospitò la parata militare in onore della Repubblica. Quindi noi ce lo celebriamo con signore e signori buonanotte, ovvero Tognazzi, che generale che va alla parata, va al bagno perché poco prima di dover parlare, dover apparire, ha un bisogno impellente che lo devasta, si chiude e qui accadono una serie di eventi tragici, tutte le stimmate, insomma, tutte le medaglie che gli appuntano sul cioè, petto. È una cosa tragica, che entra in un incubo. Gli cadono nel vitale. È l'incubo di ognuno che può, di trovarsi chiuso in un bagno senza... Pochi secondi prima dell'apparizione. E senza pubblica. I necessari presidi per l'igiene personale. Certo, doversi cambiare quindi, completamente. Cosa gli accade? È totalmente lordo, insozzato, quindi... Cade tutto dentro questa... E quindi sublime, alla Sturmtruppen, sublime concetto, momento finale del rapporto con la patria, decide che non può fare altro che fare arachiri e suicidarsi, perché non può apparire, insomma, lordato completamente alla parata, quindi si spara nel cesso mentre... Io ricordo le sequenze, che è un crescendo. È un crescendo rossiniano, sì. Gli ci cade un pezzetto, succede un problema, si china. Un gomito. sito nel Pitale, insomma c'è tutto una... Alla fine, all'Altan. È completamente immerso. Nel Trogolo. Quando ha capito che non c'è più niente da fare. Può cambiarsi, non può denudarsi, non può lavarsi, non può fermare tutto. Deve andare perché il dovere lo chiama. Come Mishima, alla fine si suicida, si spara. Perché oggi non c'è una maniera così sublime, così poetica, poi di rappresentare un dramma? Un dramma del non essere all'altezza, di non capire il momento, di non essere capace di uscire dal ruolo. Ma secondo me, come diceva Victor Hugo, fra il sublime e il ridicolo non c'è che un passo. Saper vivere su quel crinale è necessario, sempre. Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque, dove? No, dico, cosa c'entra questo? Prego? Aggiù. Stai buono. E allora, senti un po', visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! Compromiso! Qui ancora andiamo ad attingere nei nostri più profondi, più indissolubili, ma anche più cari luoghi comuni, nella nostra capacità di redenzione in articulo mortis. Qua siamo in un periodo storico diverso, però è chiara la capacità di ridare come elemento di riscatto, di riscossa a qualunque infamità, a qualunque vigliaccata, a qualunque problema comportamentale, a qualunque infingardaggine, il fatto che poi alla fine ci si può immolare. Questa è la grande guerra di Monicelli del 59 e parla della prima guerra, la prima guerra mondiale, e c'è Gassman che appunto in articolo mortis decide di diventare eroe. L'eroismo italiano è legato sempre all'estro momentaneo individuale, non è la compartecipazione emotiva. Deve essere creativo anche l'eroismo, legato alla dissolutezza, non legato a un impianto etico forte. Non ha un senso di collettività, è l'insulto personale. Quasi per ripicca, perché gli dice il fegato alla veneziana, dice certo. Ma come ti permetto, se ti dico. È la nerbata in faccia che scatena l'eroismo, che è il fisico da corazziere, la corazza appunto da titano. C'è anche Alberto Gassman. Sordi in questo film. Sordi rimane sempre se stesso. Vigliacchissimo, sì, non vuole essere fucilato. Un tersite gobbo, che è meschino anche nella morte. Invece Gassman espande il suo enorme torace alle fucilate austriache. Tu pensi Gassman è in quella circostanza la frangente per colpa di Sordi, che è infermiere dell'ospedale militare, in cambio di denaro gli fa credere che avrebbe fatto riformare. In realtà poi si trovano tutti e due in prima linea e tutti e due finiranno comunque fucilati. Maccarone, prendi monetina! Maccarone, prendi la monetina! È andato addirittura a togliere la palla al suo compagno di squadra. Si tombò. Punta deciso verso la porta avversaria. Supera il centrocampo. Scarto uno dopo l'altro da avversari. Sembra inarrestabile. Ecco, questo è un film che non conosco, che non ho visto. Devi spiegarmi. Io ti dico la mia impressione. Sento per la prima volta la clip. Mi dà l'idea di uno di quei racconti edificanti, racconti mensili di Libro Cuore, in cui c'è il ragazzo che va nel traghetto verso l'Argentina, clandestino, a trovare la madre morta o morente o malatissima e via dicendo, così, che improvvisamente sta in una specie di pertugio, di abitacolo, sente i ricchi che vanno verso il paese dell'abbondanza, che prendono in giro gli italiani, cioè degli infami, e gli hanno appena dato dei soldini perché gli faceva pena, povero disgraziato. Lui esce dal suo abitacolo e gli tira i soldi: non voglio il denaro di quelli che insultano la mia patria. È qualcosa di simile. Hai colto perfettamente, perché è un piccolo gioiellino del cinema nostrano, cioè mezzo destro, mezzo sinistro, due calciatori senza pallone dell'85, del Bergman italiano, Sergio Martino, con Andrea Roncato, molto imbalsito, improbabile giocatore di calcio, che a Francoforte si avvicina a una rete e un tedesco, con l'iconografia del tedesco cattivo, insomma, gli si avvicina e gli tira questa monetina, no? Dice: tieni, immigrato, maccaroni. E lì l'orgoglio parte con la musica del synthesizer alla Zamfir, parte l'italiano di Toto Cutugno, e lì il cuore gonfio di colesterolo si riempie d'orgoglio italico e va a segnare un gol crollando sui giocatori tedeschi, che si spostano proprio contro figure pessime in un'iconografia devastante. Però il riscatto italiano è sempre gemello. Ma tieni conto, da De Amicis, da questa edificante immagine umbertina dei valori dell'Italia appena unita, appena uscita dalla frammentazione, dalla mano del nemico, la stessa identica idea, la stessa molla emotiva, la stessa piagnucolosa maniera per salvarci sempre in cordere, viene usata secoli dopo, capito? È come la Grande Guerra, però in farsaccia tremenda, cioè la nerbata del tedesco in faccia riscatta l'orgoglio, ma singolare, individuale, mai intrapreso come collettività, come progetto comune che non ci appartiene minimamente. Ecco, finora in tutti questi film c'è un nemico comune, forse il fatto che oggi la gente brinda spritz, perché diciamo è l'unificazione nazionale oggi davanti allo spritz, bevanda semiclandestina per alcolizzati del nord-est fino a qualche secolo fa. Oggi lo spritz lo puoi prendere anche in un bar a Sciacca o che ne so, a Calatafimi si prende lo spritz, buonissimo. Capito? Sì, infatti, ecco, di fronte a questo dicevo, ci troviamo tutti uniti nei confronti del tedesco. Oggi non c'è più il tedesco, se perlomeno forse sì, da un punto di vista, diciamo, oddio, di battaglia verso l'euro. Sì, vabbè, ma quanto è veramente sentita questa cosa? Però non è così allucinato, così forte, così costante. Cioè nessuno pensa all'orgoglio della patria oggi, della Repubblica, e vede il tedesco invasore. Boh, mi piacerebbe vederlo. Ti ricordi Ferrara quando aveva fatto quella cosa contro la Merkel e Sarkozy, quella sceneggiata molto... Cioè comunque c'è, la Merkel si presta un po' all'iconografia della tedesca, con epiteti anche piuttosto hard. Sì, ma fanno parte ormai di un'altra epoca. Sì, la commedia e tutte le sedicreazioni ne fa parte. Sì, però vuoi, non è stato sufficiente a coalizzare l'orgoglio nazionale intorno a un simbolo forte, un nemico unico, come era in tutta questa rassegna. Ma ci saranno i mondiali adesso, vedrai. Ci fermiamo un istante, informazione del traffico. Ma hanno segnato 7-0, finisce sta partita, anche 8 se ci hanno tempo. Allora non va mosse, bene, sto qui per questo, bene. Che bo bo bo. Io parlo quando mi pare, che vuol dire bo bo bo. Si era mimetizzato Dino Manfredi per sembrare anche lui un tedesco svizzero, si era nascosto, aveva celato ogni stigma esteriore della sua presenza italiana, ma di fronte al calcio, l'unico vero collante, l'elemento unificante, il luogo dell'orgoglio massimo, alla fine getta la maschera, fa questo coming out e si rivela come schifosamente italiano, almeno agli occhi degli altri avventori. Contesto. Gli italiani perdono le guerre come partite di calcio, le partite di calcio come guerre, diceva Churchill, e così conferma Brusati nel 73 con Pane e Cioccolata, con questo Nino Manfredi ciociaro ma biondo platino, che appunto irrompe irrigidito per sembrare il posto, Sì, fra questi tedesconi ebri di pinte di birra che stanno guardando, vedono Capello esultare con le sue braccette tese che fa questo gol, e lì esplode da più angolazioni in primo piano l'urlo ciociaro di Manfredi per esultanza. Sì, è quello il punto, è quello il discrimine, cioè noi per esempio con la Germania appunto le partite le vinciamo sempre, anche storicamente, è come una beffa del destino, cioè un accanimento, no? Cioè, un popolo compatto, unito, con un forte senso etico che viene sempre vilipeso, svilaneggiato dall'estro individuale e momentaneo, una sorta di metafora che è comunque molto esplicativa. Certo, adesso dirò una cosa che suonerà come una bestemmia. Se non ci fosse stato l'idea del tedesco nemico, ma quando mai non avremmo avuto l'idea di essere qualcosa di diverso, di differente? Nemico, amico, alleato, vicino di casa, invasore, quello che vuoi. Ma come vedi, cioè, non l'avevo pensato all'inizio della trasmissione, giuro. C'è questo filo rosso che ricorre sempre. È certo, stranissima questa certo cosa. Beh, in fondo poi noi con le Sturmtruppe abbiamo rovesciato anche questo mito, l'abbiamo deriso e vilipeso perché ne abbiamo bisogno, sono i nostri nemici amici, sono anche quello che vorremmo essere, quello che invidiamo e quello che loro invidiano a noi, c'è una sorta di rapporto continuo di carnefice vittima, di ordinatore e appunto anarchico furbesco, insomma è questo il duopolio. La nostra generazione ha fatto veramente schifo. Perché? Beh, guarda Nicola, per esempio. Che ha fatto Nicola? Che ha fatto Nicola? Ha preso a calci la famiglia, la carriera, e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice. Ah, è lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali. E tutto questo perché? per un futuro diverso. E beh, il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Bella frase questa, dovremmo farcela tatuare addosso io e te. Io dentro l'ho fatto già fare questa frase di Gassman, di C'eravamo tanto amati. Cioè appunto, nelle parti intime? Sì, sì, l'ho fatto nell'entrocoscio. Comunque no, Gassman ogni tanto ci si lecca le ferite, ogni tanto il patriottismo italico si lecca le ferite e riguarda le proprie colpe, no? Qui questo gruppo di amici composto da Saltaflores, da Gassman e da Manfredi, dopo che hanno fatto la resistenza, hanno cercato un futuro diverso, poi si guardano in faccia e capiscono che non hanno costruito un paese. Le loro attese non sono state esaudite, o perlomeno loro non erano all'altezza dei loro obiettivi. Ma vale implacabile per tutte le generazioni italiane, questo film è eterno, perché poi purtroppo quando si tirano appunto i conti ci sono degli esiti contemporanei di quelle figure, del critico cinematografico sfigato, non ha nemmeno il coraggio di firmarsi, di tutti questi amici. No, è ancora peggio, perché quelli erano pagati ed erano messi in regola, cioè lui era vice, oggi non si potrebbe neanche dire quello, oggi scrivi su un blog a pagamento in cambio di visibilità, cioè a forza di essere pagato in visibilità e non in denaro, quando morì di fame era famosissimo, è un epitaffio che ho scritto io perché che mi piace, secondo me è giusto. Come c'hanno i nostri amici, per questo progetto non c'è budget. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta o l'antistorica uguaglianza. Ma che vuol dire? Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Madonna d'un Dio! Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro! Bravo! Certo, alla luce della contemporaneità, mi ricordavo che in questo caso Tognazzi, capopopolo del golpe, avesse questo accento toscano, fa molto riflettere. Eh sì, comunque era un golpe simil borghese che Monicelli... Sì, era la presa in giro del fallito golpe borghese, sì, che sì. Partirono alla volta di Roma le guardie forestali di Rieti e si fermarono per strada. Qualcuno tornò in tram, si dice, insomma ci fu la parodia meravigliosa, appunto Tognazzi... Sì, calma, io l'ho vissuto quegli anni. Si fa la parodia perché qualcosa a un certo punto si è fermato. Se il golpe andava avanti, il golpe c'era. Sì, non c'era molto da ridere, appunto. Cioè, è sempre l'oscillante fa farse tragedie. Qualcuno cambia idea all'ultimo momento, diciamo così. No, infatti c'erano anche elementi forse. L'idea c'era, non era tutta una... Ecco, come sempre in Italia, le cose più terribili sono fatte dalle persone più cialtrone. La farsa sbuca da un momento all'altro, insomma. Ecco, questo film però è divertente perché c'è l'esasperazione, è una cosa lontana, le memorie dei più giovani non ricordano questa sorta di pantagruelico ingozzata di amor patrio portato poi semplicemente alla conquista di un potere, e qui ci sono tutte le figure iconografiche di quel modo di pensare, di quel periodo, di quella nostalgia che è continuato a aleggiare nel nostro paese, ancora ogni tanto aleggia ma in forme del tutto diverse, ormai in memory di quello che è il rapporto diretto con i reduci. Sì, ci sono i colonnelli greci, c'è la vendita finale del modello di colpo di Stato, viene venduto agli stati africani da Tognazzi, che vive nel Frusinate ormai. È diventato un format, vedi come anticipa. Sì. L'unica cosa che può fare, diciamo, è il nostalgico del Frusinate, vendere il format del colpo di Stato ai paesi del cosiddetto terzo mondo, almeno allora. Amici, amici, vi parla il generale della Rovere. Calma, dignità. Siate uomini, dimostrate a queste carattere che non temete la morte, sono loro che devono tremare, ognuna di queste bombe che cade avvicina... Ecco, qui diciamo, veramente è l'apoteosi di tutto quello che abbiamo detto finora, l'inesistenza di un ruolo di cui ci si appropria, si sceglie anche la morte pur di vivere fino in fondo nel proprio ruolo. Questo è il grande archetipo di tutto, il generale della Rovere di Rossellini, con un grandissimo Vittorio De Sica, scritto da Indro Montanelli, il soggetto, quindi De Sica che sublimemente incarna la divisa del generale, che non è solo uno squallido truffatore che fa borsa nera. Sì, lo taglia borsa, però sarà vestito da generale, però muore da generale. La divisa gli si tatua addosso e diventa una condanna e una gloria, perché poi si lascerà fucilare e diventerà eroe. Sempre l'estro individuale, ancora una volta, il guizzo finale che nobilita. Ma non è che abbiamo sempre bisogno di una catarsi finale, ma perché dobbiamo sempre essere assolti da qualcosa? Ci possiamo portare dietro le nostre colpe, il modo nostro di essere difformi, di essere infami? No, deve esserci sempre una salvezza, alla fine un raggio di luce che al prezzo del nostro sacrificio, la nostra morte, la nostra distruzione, ci salva. Perché dobbiamo essere salvati? Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, e per gli italiani è perfetto. Ora che è stato, non è anche risparmiare, è banalissimo, la dicono anche le maestre a scuola. Vabbè, fine, buona festa, a domani.